l'islamofobia, il rifiuto degli immigrati individuati tout court come musulmani che possono mettere in discussione, diciamo, la cultura liberale, libertà civili di un paese come l'Olanda, insomma, che è sempre andato fiero del suo primato di libertà, e che in qualche modo, diciamo, ha costruito sulle paure, diciamo, dei cittadini qualcosa di simile a quello che in altri paesi europei hanno fatto partiti come il Front Nazionale o la Lega Nord in Italia, ma diciamo con un'accentuazione appunto di difesa della democrazia da una minaccia islamica che poi in realtà diventa xenofobia allo stato puro. Si è iniziato con Pim Fortuyn all'inizio nel 2002-2003 e poi si è arrivati appunto al fenomeno di Wilders, che è l'ultimo erede di questa crociata passata e diciamo alimentata anche nel 2004 dall'omicidio di Theo Van Gogh, un regista che aveva raccontato, diciamo, attraverso i suoi film la minaccia islamica. Il problema è che tra pochi mesi, cioè a giugno, ci saranno le elezioni politiche in Olanda, e che il rischio veramente grande è che questa forza politica, che è diventata la prima nella periferia di Amsterdam proprio in questi giorni, si candidi addirittura alla guida del paese. Insomma, un bel cortocircuito nel paese che un tempo era il simbolo delle libertà civili in Europa e che oggi è diventato la culla dell'islamofobia. E tra l'altro Wilder sta diventando un po' l'emblema di questo nuovo razzismo europeo, che appunto non guarda al passato del neofascismo quanto all'idea che ci si debba difendere da quelli diversi come da noi, perché ci minacciano il nostro stile di vita, le nostre libertà, il nostro modo di pensare. Senti, io un'altra domanda, visto che abbiamo ancora qualche istante ancora, tu hai evocato appunto le prossime elezioni politiche. Come funziona in Olanda questo sistema? Nel senso, sappiamo che in altri paesi europei esiste quello che viene definito cordone sanitario, che in qualche modo tende a tenere fuori dalle coalizioni di governo tutti i partiti della destra più o meno radicale. Questo risultato, il risultato appunto notevole ottenuto dal Partito della Libertà di Wilders di questa tornata, in qualche modo fa vacillare questo tipo di intenzione, porta anche i partiti della destra più moderata a flirtare con questi soggetti, oppure tiene anche lì questa sorta di cordone sanitario? Al momento sta tenendo. Nell'arco di questi 10 anni nessuno ha pensato di allearsi prima con Fortuyn, la lista che portava il suo nome, e oggi col Partito della Libertà di Wilders. Il problema è che c'è una crisi, si va alle elezioni anticipate perché c'è una crisi di governo. I laburisti sono ritirati dalla coalizione chiedendo il ritiro della compagine militare, insomma, in Afghanistan. Non si sa bene che cosa potrà accadere. Certo, al momento, diciamo, il fenomeno della xenofobia anti-islamica è rimasto ai margini della scena politica olandese. Il punto è che, diciamo, questo cordone sanitario sta cominciando a non tenere più sul piano sociale, cioè i partiti non si alleano, ma si capisce ormai che diciamo, una parte soprattutto degli ex ceti deboli tradizionalmente rappresentati dai laburisti si sta orientando le sue paure, come è accaduto in altri luoghi d'Europa, verso queste forze politiche. Quindi vedremo che cosa potrà accadere, appunto, se ci fosse un'affermazione consistente alle europee di giugno. Vabbè, cioè, noi, politica di giugno. Esatto. Vabbè, noi sicuramente allora ne continueremo a parlare, appunto, anche in vista di quell'appuntamento. Io ti faccio i complimenti perché sei stato incredibilmente stringato, diversamente dal solito. Non so se tu hai qualcosa da aggiungere, oppure se possiamo dare anche la linea al GR a breve, visto che qua scalpita. Ma una piccola maledizione atmosferica, nel senso, sono stato molto breve, forse perché sono molto bagnato, quindi diciamo avrei voglia di asciugarmi. Va bene, mi sembra anche legittimo, comunque un po' tu tutti noi e non ce ne lamentiamo per radio, quindi va bene. Dai, allora ci aggiorniamo la settimana prossima. Ciao. Chiari Belle non cambia mai, degli statuto è la sigla finale, in questo caso di Maldestra. L'appuntamento con questa trasmissione è come di consueto per martedì prossimo alle 12.15, speriamo un po' più puntuali di quest'oggi, con il blog ovviamente maldestra.noblogs.org. adesso vi lasciamo al GR, che è già qui accanto che scalpita, e un saluto a tutti e a tutti. 13 e 10 minuti, inizia con un po' di ritardo il GR di Radio Onda Rossa. Una serie di notizie che ci portano in giro per l'Europa tra le mobilitazioni dei lavoratori, in primo luogo in Grecia, dove proseguono gli scioperi e le occupazioni di ministeri e uffici pubblici da parte dei lavoratori in sciopero. Proseguono anche gli scioperi in Francia nelle raffinerie della Total. E continuiamo a parlare della crisi strutturale che sta coinvolgendo anche altri paesi. La Bulgaria ha deciso di aumentare le tasse per le spese mediche proprio per far fronte al deficit pubblico. Passando poi ad altri continenti, scontri in Nigeria, i militari nel frattempo si dispiegano su tutto il territorio e l'abbandono da parte degli Stati Uniti dell'isola di Haiti dopo il terremoto. Passando alle notizie dall'Italia, un nuovo cabotaggio è stato bloccato nel corso di questa notte dal movimento No TAV e vi ricordiamo che oggi ci sarà l'udienza per il riesame per i compagni torinesi e poi cercheremo di fare una corrispondenza con la conferenza stampa che si sta svolgendo in questi momenti al Pigneto. E allora, in Grecia, mentre il primo ministro Papandreou se ne va in giro per il mondo e oggi incontra Barack Obama, prosegue lo sciopero dei lavoratori pubblici, in particolare del settore del fisco e delle dogane e della nettezza urbana. Lavoratori che hanno tra l'altro dichiarato la chiusura di tutte le discariche fino a giovedì prossimo, data in cui si svolgerà in Grecia lo sciopero generale. Da ieri poi i lavoratori precari occupano la sede del Ministero del Lavoro al Pireo, continua da venerdì scorso l'occupazione del poligrafico e la protesta davanti alla tesoreria dello Stato. E mentre sui sondaggi si segnala una maggioranza di cittadini che è contraria a gran parte delle misure salariali e fiscali, la cosiddetta misura di austerità adottate dal governo, si è creata un fronte di opposizione anche all'interno del Partito Socialista, partito di governo, con il portavoce del gruppo parlamentare Christos Papoutsis, che ha sferrato un attacco contro la linea del ministro delle Finanze Giorgos Papakostantinou. Intanto noi vi ricordiamo che nella giornata di giovedì faremo anche un collegamento, quindi un approfondimento anche con un compagno greco, e quindi ci faremo raccontare più nello specifico questa particolare fase e in particolare le misure adottate dal governo. Quindi vi invito ad ascoltare Radio Onda Rossa anche per un approfondimento sulla situazione in Grecia. E continuiamo a parlare di lavoro, parliamo della produzione petrolifera francese, parliamo della Total. I lavoratori della raffineria di Flandre a Dunkerque hanno intenzione di lanciare un nuovo appello alla solidarietà per tutte le altre raffinerie di Francia. Lo sciopero, che è iniziato nel mese di gennaio, in particolare il 12 gennaio, è indetto dai sindacati maggioritari e non. Infatti oltre alla CGT ci sono anche gli altri due sindacati, Force Ouvrière e Sud, e potrebbe estendersi a partire dalla giornata di oggi ad altre 5 raffinerie sparse sul territorio francese, oltre a ovviamente proseguire lo sciopero di uno stabilimento di Flandre che è a rischio chiusura. La raffineria è ferma dal mese di settembre, sono a rischio 380 lavoratori e 400 collaboratori esternalizzati che quindi lavorano nell'indotto. È l'unico stabilimento ad aver ricevuto rassicurazioni, a non aver ricevuto rassicurazioni circa la riapertura. Dal canto suo, la Total ha dichiarato nella giornata di ieri, per bocca del suo comitato dirigenziale, che la raffineria di Flandre è previsto l'acquisto da parte di EDF, che è l'impresa che si occupa della gestione dell'elettricità in Francia, che intende costruire proprio a Flandre un terminale per il metano con annesso centro di assistenza tecnica. I lavoratori, a quanto dice l'impresa, dovrebbero essere inseriti nella nuova azienda dopo un corso di formazione specifico. E passiamo della spesa pubblica, parliamo di spese mediche, di tasse. Il governo bulgaro è intenzionato ad aumentare le tasse sulle spese mediche per un ammontare di circa 180 milioni di euro da spendere nel disastrato settore sanitario del paese. L'esecutivo di centrodestra si appresta a votare un aumento dell'imponibile sulle assicurazioni mediche dal 2 al 10% del reddito pro capite. E questo ha condotto i medici generici a organizzare una protesta a Sofia e in altre città contro proprio queste misure che rendono più difficile l'accesso alle cure mediche da parte dei cittadini. E ancora in Nigeria, dove dopo due giorni di scontri mascherati da questioni religiose e culturali tra cristiani e musulmani, la situazione resta tesa. Il governo ha intimato ai militari di spiegarsi in tutta la regione di Jos o Jos, dove da due giorni appunto proseguono gli scontri per il controllo delle risorse e che vedi contrapporsi sostanzialmente due economie, quella stanziale di coltivatori e quella in continuo movimento di allevatori di bestiame, entrambi però affamati dalle crisi climatiche e dalla siccità che hanno colpito la regione centrale della Nigeria e che ciclicamente fanno esplodere i pretesti religiosi. E vi ricordate il sisma, il terremoto che ha colpito in maniera terribile l'isola di Haiti il 12 gennaio scorso e che ha distrutto la parte appunto dell'isola dove si trova Haiti, e ricordiamo anche la militarizzazione a cui era stata sottoposta l'isola in particolare dall'esercito statunitense. Oggi arriva la notizia che l'esercito appunto degli Stati Uniti lascerà Haiti. Il generale Douglas Fraser, capo del comando sud degli Stati Uniti, durante un incontro con i giornalisti presenti sull'isola ha fatto sapere che la maggior parte della nostra missione è stata completata, poi vorremmo vedere i risultati di questa missione, cioè che cosa comporterà sul territorio. Nonostante l'esercito degli Stati Uniti sta abbandonando l'isola, comunque Fraser ha confermato l'impegno di Washington per Haiti non cesserà, ma vi saranno solo variazioni nell'ambito delle operazioni militari. E andiamo a terminare, andiamo quasi in chiusura del GR con due notizie che riguardano l'Italia, riguardano entrambe Torino. Sperando di poterle approfondire anche per il pomeriggio e per il GR di questa sera. Il blocco di un nuovo carotaggio sulla linea Torino-Lione dopo l'assemblea che ieri ha visto al presidio di Sant'Antonio ieri sera dove si discuteva anche dell'ennesima minaccia da parte della rete ferroviaria italiana di far sgomberare il presidio, il movimento No TAV intorno alla mezzanotte si è recato in delegazione alla stazione di Condove, dopo il passaggio dell'ultimo treno passeggeri è sceso sui binari bloccando la circolazione ferroviaria per circa un'ora e bloccando anche il passaggio del cargo merci per Barcellona. Oggi ci saranno una serie di azioni, tra cui volantinaggio appunto nelle zone in cui si è tentato di effettuare i carotaggi nella giornata di ieri. Domani ci sarà una fiaccolata alle 21 che partirà dalla stazione delle Ferrovie dello Stato. E nel frattempo arrivano anche notizie sul terreno, diciamo così, istituzionale. Sempre nella giornata di ieri il Partito Democratico, ormai diciamo su posizioni abbastanza discutibili, tocca il suo fondo nominando un commissario per la Val di Susa che ha il compito di riportare l'ordine in un territorio avverso alla burocrazia democratica, e ha nominato appunto Luciano Marengo il commissario diciamo affiancato da una commissione che dovrà valutare i provvedimenti presi da alcuni comuni di area sempre PD e riportarli sostanzialmente all'ordine. E ricordiamo anche che oggi ci sarà l'udienza per il riesame della situazione dei compagni torinesi arrestati per le iniziative di solidarietà ai reclusi e alle recluse nei CIE, e quindi siamo in attesa anche dei risultati di questa udienza, per cui nel pomeriggio cercheremo di fare un collegamento anche con Torino, facendoci anche raccontare ad esempio perché i compagni sono stati spostati di casa di reclusione e quindi se è possibile anche avere un contatto diretto con gli avvocati che stanno seguendo il caso. E con questa notizia terminiamo il GR, fra poco lo spazio comunicazioni, prima cercheremo però di metterci in contatto con la conferenza stampa che è in corso al Pigneto, lo ricordiamo, riguarda la proposta di fare ricorso al TAR in merito alla circolare ministeriale del Ministro dell'Istruzione che prevede la quota massima di presenza di studenti, di allievi anzi delle scuole primarie, elementari, allievi stranieri, quindi non di cittadinanza italiana, decreto ministeriale che prevede sostanzialmente una vera e propria segregazione per chi vive sul proprio territorio e quindi avrebbe il diritto a frequentare la scuola nella quale ha già amicizie, relazioni sociali e quant'altro. Quindi questa era la richiesta che era stata fatta anche nella giornata del 1° marzo dai genitori delle scuole interessate, in particolare quelle che ormai conosciamo anche per averli ascoltati moltissimo dai microfoni di questa radio, la Pisacane e le scuole dei territori che, in cui c'è una forte presenza di popolazione migrante residente, quindi la chiusura quindi di queste scuole e il taglio anche di ore lavorative per chi appunto insegna faticosamente anche in questi istituti. Quindi un po' di spottini, poi cercheremo di fare questo collegamento telefonico, altrimenti ovviamente gli approfondimenti proseguiranno anche nel corso del pomeriggio. Il 30 novembre 2009 è venuta in scadenza la concessione dello stabile di Via Cecchi, che per ora ospita Radio Blackout. Il 2 dicembre ci viene frettolosamente comunicato che in ragione della rifunzionalizzazione dell'area non potrà darsi corso al rinnovo. Tuttavia, visto che una radio non può fare le valigie come un qualunque sfollato, scacciato, esiliato, abbiamo il congruo termine di rilascio di 4 mesi. Data di scadenza 31 marzo 2010. Quindi, non veniamo sfrattati, non veniamo scacciati, siamo incompatibili. Ma su via, in 4 mesi si sposta il traliccio, impianto di trasmissione e si va altrove, se si riesce. Facile, no? Forse no, rifiutandoci il rinnovo di contratto, motivando il tutto con incompatibilità sulle nuove destinazioni d'uso, si nega per intero tutto ciò che Radio Blackout è, senza compromessi, senza se e senza ma. Si nega la sua stessa esistenza. È dal 1992 che tra alti e bassi proviamo a dar voce a chi non ha voce. Togliendoci la sede, certo, non si sta obbligando alla chiusura, è tuttavia una mossa che ha lo stesso valore. La questione più grossa, si parla di reale censura. La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione. Siamo consapevoli che il piano di discussione, se questi sono i termini, si sposta su un tema più ampio di un semplice rinnovo di contratto. In ogni caso, fino all'ultimo respiro, noi non ci fermiamo qui. Poco ma sicuro. All'acqua calda ce li metti i pachino. Giovedì 11 marzo, Strike SPA, via Partini 21, Casalbertone. Dalle ore 20:30 cena Tech Block a sostegno dell'infrastruttura tecnologica di Radio Onda Rossa. Cena catalana, tapas e paella per tutti e tutte. Ore 21, presentazione di Non dimenticare la rabbia, storie di stadio, strada, piazza. Intervengono Marco Capocetti Boccia, Marco Filopat, il Duca e Renato. Il tutto a Strike SPA, via Umberto Partini 21, Casalbertone, giovedì 11 marzo 2010. E allora vi abbiamo appunto annunciato questo collegamento con la conferenza stampa che si sta tenendo in questo momento al Pignero e siamo invece al telefono con Arturo Salerni. Ciao, intanto ti saluto. Ciao. Che si sta occupando proprio di seguire anche la questione più specifica del ricorso al TAR nei confronti di questo provvedimento ministeriale che appunto dicevamo la chiusura anche nei confronti degli studenti, degli allievi non diciamo italiani. Ecco, volevo tu che ci raccontassi anche un po' quali sono le motivazioni che avete anche condotto. Sì, noi abbiamo fatto sostenuti dal comitato di quartiere e altre associazioni di zona come associazione progetto diritti e come è un gruppo di genitori cittadini non italiani, di bambini ancora, cittadini ancora non italiani, perché come sai per chi è nato in Italia la cittadinanza si acquista col 18° anno, abbiamo fatto un ricorso contro la circolare Gelmini, quella che stabilisce il tetto del 30% degli alunni negli istituti e contro la circolare applicativa che è dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. Contemporaneamente in Lombardia oggi si discute al Tribunale di Milano un ricorso per la repressione della condotta discriminatoria. Abbiamo sostenuto nel ricorso che la scelta di limitare al 30% la presenza dei bambini degli bambini cittadini non italiani negli istituti viola una serie di normative di carattere costituzionale, di leggi ordinarie, di direttive comunitarie in materia di tutela dalla discriminazione razziale o nazionale. Il fine dichiarato della circolare è quello di evitare le classi ghetto, ma non arriva a questo risultato, ma arriva al risultato che se una scuola è inserita in un tessuto in cui vi è un'altissima presenza di cittadini stranieri, in quel caso la scuola, i ragazzini vengono portati fuori nella scuola del quartiere, vengono portati fuori dal quartiere con un gravissimo disagio, quindi invece di andare a favorire l'integrazione, questo è il fine dichiarato, favorire l'integrazione dei bambini stranieri, invece di favorire questo si determina un disagio enorme, uno sradicamento delle famiglie e dei bambini, di gravissimi problemi che vengono determinati dal fatto di dover accompagnare la mattina e di prendere la sera i bambini da situazioni molto lontane dalle proprie abitazioni, sradicandoli dal quartiere e quant'altro. Quindi di fatto, per una serie di motivazioni che abbiamo cercato di evidenziare nel ricorso, vi è un'azione, non un'azione positiva, ma un'azione che determina in maniera sproporzionata, illogica e immotivata un pregiudizio per delle persone solo in ragione della loro nazionalità. Va bene, io ti ringrazio. Ovviamente seguiremo anche quindi il procedimento poi all'interno del Tribunale amministrativo. Sì, tempi brevissimi. Noi abbiamo qui una questione specifica che abbiamo posto, e che è quella qui a Roma della scuola Pisacane, che si trova al quartiere di Torpignazzara e che si trova nelle condizioni previste come non volute dalla circolare Gelmini. Che cosa succederà? Chiuderanno la scuola? Vi è anche una presa di posizione, per esempio, del sesto municipio su questo, ma anche dei quartieri, delle realtà locali, delle famiglie, insomma, che veramente sono terrorizzate e nello stesso tempo indignate per questa situazione che si sta creando. Sì, infatti stamattina parlavamo proprio con i genitori anche di questo, ma bisognerebbe anche sentire chi poi ha lavorato anche nella scuola, chi lavora nella scuola, perché sì, c'è anche il rischio. Perché tra l'altro si tratta, per esempio, in quel caso di una scuola che ha fatto un grande riuscito lavoro di integrazione. No, è un'esperienza positiva che andrebbe esportata, non uccisa come si sta facendo adesso. Assolutamente, io intanto ti ringrazio. Volevo chiederti come sta andando la conferenza stampa, se c'è una presenza anche... Sì, c'è una presenza di diverse agenzie e qualche giornale. Va bene? A dopo. Ciao. E quindi ecco la rapidissima corrispondenza, anche perché appunto era in corso la conferenza stampa, quindi c'era la necessità anche di parlare con i giornalisti presenti. Questo che avete sentito era Arturo Salerni, che insieme al progetto Diritti sta seguendo questa specifica vicenda del ricorso al TAR, che più che per la questione, diciamo, giudiziaria in sé per sé, è utile per mettere in luce anche tra le varie misure che tendono alla discriminazione di alcune persone, quella che riguarda nello specifico chi poi sostanzialmente ha molta più difficoltà a difendersi, e appunto gli alunni, i bambini delle scuole e le bambine delle scuole primarie. Con questo ultimo aggiornamento terminiamo qui il GR di Onda Rossa. Vi lascio agli altri spot, facendovi riascoltare quello che abbiamo brutalmente tagliato per mandare in onda la telefonata, ovvero quello della scena a sostegno della infrastruttura tecnologica di Radio Onda Rossa, che ormai da un po' di tempo anima qualche giovedì sera di strike. Ci sarà un appuntamento proprio giovedì 11, collegato anche alla presentazione del libro Per non dimenticare la rabbia, ma appunto vi lascio ascoltare gli spot e poi torneremo in onda con lo spazio comunicazioni. Nell'orata all'acqua calda ce li metti i pachini. Giovedì 11 marzo, Strike SPA, via Partini 21, Casalbertone. Dalle ore 20:30 cena Tech Block a sostegno dell'infrastruttura tecnologica di Radio Onda Rossa. Cena catalana, tapas e paella per tutti e tutte. Ore 21, presentazione di Non dimenticare la rabbia, storie di stadio, strada, piazza. Intervengono Marco Capocetti Boccia, Marco Filopat, il Duca e Renato. Il tutto a Strike SPA, via Umberto Partini 21, Casalbertone, giovedì 11 marzo 2010. Buongiorno, sono venuto a pagare la bolletta dell'acqua. Bene, sono 10.000 euro. Sta scherzando? Come? Non sa che sono arrivati i privati? Ah, è così, di questo passo ci porteranno via tutto. L'acqua è un bene comune, fuori l'acqua dal mercato, fuori i profitti dall'acqua. Sabato 20 marzo partecipa alla manifestazione nazionale a Roma. Per chiedere la ripubblicizzazione dell'acqua, per la tutela dei beni comuni, per la biodiversità e il clima, per la democrazia partecipativa. Info www.acquabenecomune.org. Qualche giornata, ebbene si lasciò che seguano libri di Genesi, anche se c'è chi si dilegua come Fico e Genesis. I testamenti dispensano. E Allora, un primo appuntamento, lo abbiamo letto anche nella mattinata di oggi, riguarderà i lavoratori e le lavoratrici dell'Agile ex Eutelia. Domani, mercoledì, sciopero di 8 ore con manifestazione a Montecitorio. Le lavoratrici e i lavoratori di Agile sciopereranno ancora manifestando mercoledì 10 marzo dalle ore 13 sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri per chiedere al Governo di rispettare gli impegni assunti nei precedenti incontri a Palazzo Grigi. I lavoratori hanno lottato e continueranno a farlo scoperchiando con le loro iniziative un sistema fatto di operazioni industriali di dubbia entità, di malaffare. Da 2 anni denunciano nel vuoto politico istituzionale un sistema di appoggi, coperture e ambiguità che deve essere debellato. L'aggressione e l'isolamento di questi interessi perversi non può essere subordinato alle aule di tribunale, e quindi insomma queste un po' le richieste nella specifica della giornata di domani, appunto giornata di mobilitazione per chi volesse recarsi e come dire, dare solidarietà anche ai lavoratori dell'Agile ex Eutelia, domani dalle ore 13 fino a praticamente la mezzanotte in piazza Montecitorio. Vi ricordo anche l'appuntamento di sabato per la manifestazione, la mobilitazione sotto ai CIE, e sempre invece per la giornata di domenica presidio per i compagni a Re Bibbia. Rilanciamo l'appello per la partecipazione al presidio sotto il carcere di Re Bibbia in solidarietà con Costantino e Manolo, detenuti in isolamento. Ci sarà appunto questo pomeriggio a Re Bibbia, domenica 14 marzo alle ore 14. Ne parleremo anche dai microfoni della radio nelle prossime giornate per raccontare anche questa particolare vicenda di applicazione del 270 bis che tanto in questi tempi sta tornando di moda. Con questa ultima comunicazione, rimandando anche agli altri appuntamenti comunicativi della radio, le altre iniziative di questa settimana, sono le 13.35, questa voce vi saluta, augura un buon pomeriggio a tutte e a tutti e un abbraccio come sempre a chi si trova privata o privato della propria libertà personale. Pra ser o super bacana, super bacana, super bacana, super bacana, super homem, super fit, super vink, super ist, super bacana. Estilhaço sobre Copacabana, mundo em Copacabana, tudo em Copacabana, Copacabana. O mundo explode longe, muito longe, o sol responde, o tempo esconde, o vento espalha e as migalhas caem todas sobre Copacabana. Esconde o super amendoim, o espinafre, o biotônico, o comando do avião supersônico, do parque eletrônico, do poder atômico, do avanço econômico. A moeda número 1 do tio Patinhas não é minha. Um batalhão de cowboys, barra entrada da legião dos super-heróis. Eu super bacana, vou sonhando até explodir colorido no sol dos 5 sentidos. Nada no bolso, nas mãos. Um instante, maestro. Super homem, super flit, super vink, super ist, super viva, super chá, super quentão. Super homem, super flit, super vink, super... Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la frequenza che si muove tra le strade, per le piazze, contro il muro delle razze. Chi resiste, chi ci magna, la sua voce è una compagna. Radio Onda Rossa dal 77 in pista. Radio Onda Rossa raccontando ogni conquista. Ma Roma città aperta, sguardo acceso, sempre allerta. Dalle lame, dal banchiere, difendiamo chi diserta. Radio Onda Rossa 87.9. Radio Onda Rossa, la frequenza che si muove. A palla nella macchina, il sound diventa serio. Le stronzate dei TG le sfanculiamo sul tuo stereo. Radio Onda Rossa.

تيجي بلا شغل مش معقولة مش ححقق أحلامنا بهالسهولة واعين في القصة من وقت الطفولة ولسه ما تغير إشي في وقت الرجولة نتيجة بلا شغل مش معقولة مش ححقق أحلامنا بهالسهولة واعين في القصة من وقت الطفولة ولسه ما تغير إشي في وقت الرجولة تفكيره ولا بعقلي زي البيض المقلي خسر حقي بدك جنة وجهنم انت بتنقي زي المخنوق ومربوط معلق بالشقلوب نتعذب بس نتحدى اي واحد نفك حاله قدها حواجز هون وهناك جدار وسلاك اذا بدنا نوصل جهة تانية لازم نتاك هاي حياتنا وعم نطلع بس هون كل يوم العب لك في اعصابك بعد عشر سنين حكون داك في الحمير مشاكلنا حيجقوا فينا زي المسامير وما حيكون في حد عايش حياة الملك أو أمير عشان الأرض لمين الأرض للكل كل ما نخسر منها شوي نخسر من حالنا شوي أكتر والمخسر بتكبر يوم ورا يوم ودانا عم بتدمر يوم ورا يوم ودانا عم بتدمر أيوة هيك نتيجة بلا شغل مش معقولة مش ححقق أحلامنا بهالسهولة واعين في القصة من وقت الطفولة ولسه ما تغير إشي في وقت الرجولة مستغربين ليش في أحلام حطمين وكل هالناس معطلين يمكن لأن قبلنا نكون خسرانين بس لا أنا جاي هون أغير قوانين بدنا نشتغل لنموت عرقانين ما إحنا هيك هيك خربانين فمش قدر غير نصلح ونصدخ ونطلع الطاقة كلماتي بتوصل أسرع من سرعة رصاصة بتلفت نظرك مثل الرقاصة غريب معاك مصاري دنيا كلها بس بلدك ممنوع تدخلها مزبوط طنيت قصر بس لسه الحاجز بدك تستنى من الصبح للعصر صحيح عندك كل شي موجود بس أرجوك حاول تذكر الحرية أقولك وين تبدأ بتبدأ في عقلك بلاش ما تجرب إشي هبل وتاكل مقلب بلاش ما تجرب إشي هبل وتاكل مقلب أيوة Thank you. sit there and count your fingers. What can you do? Little girl, you're through. Thank you. e sostieni Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Oggi ci prendiamo un minuto in più. Questo è sempre Radio Onda Rossa 87.9 per Roma e l'Alto Lazio. Questo è sempre Radio Onda Rossa anche per i vostri computer, da cui ci ascoltate in streaming su ondarossa.info o tarantularubra.it. Ed essendo oggi un martedì 9 marzo 2010, buon pomeriggio a tutti quanti voi da Tarantula Rubra. Settimanale di musica etnica, world folk tradizionale, ma non solo, letture selezionate per voi, letture socio etno antropologiche, tutti i nostri rituali che da millenni continuano ancora oggi a perpetrarsi, alcuni dei quali ovviamente sono ancora vivi e non sappiamo perché, alcuni dei quali invece è meglio che siano scomparsi, che comunque dobbiamo sempre conoscere per cercare di essere migliori domani, e questo ce lo stiamo dicendo da tanto tempo, ma di migliorare insomma qui tanto in Italia non se ne parla. Comunque noi ce la mettiamo tutta, questa è la vostra radio, quella che fa informazione. Nella prima parte della trasmissione ancora con il saggio di Arnold Van Genep, i riti di passaggio, ovviamente sempre musica fra un passo e l'altro per voi, e nella seconda parte musica novità. E vi annunciamo già da oggi che martedì prossimo sarà con noi Piero Brega. Piero Brega, di cui stiamo presentando l'ultimo disco, ma che avremo il piacere di vederlo insieme a lui martedì prossimo. Intanto il buon ascolto a tutti quanti voi, oggi ce lo dà Roy Paci con la Retusca, con un ospite eccezionale che è Bunna, il prezzo è The Deuce in una versione marranzano. Silenzio, silenzio, state calmi per favore. Pecciotte, pecciotte, di caos, sottoscritto Marcino con tutta la famiglia Retusca. Mi ricordo se c'è una cosa che collegare Calabria a Sicilia. Chi è te già senta lo core, chi sei a voce di Mr. Bunna. Io lo presento con gran dolore. It's from the first time I saw you last night. I felt a whole passion looking good like. Like when I dream come true. This happened to me. Now from this gate thinking how all the time was my freedom fly out for the crime. Believe me, I didn't show no one. You gonna remember, baby. You're always in my mind. When the justice will come right, I will give you my love of the time. I'm paying it, you. I can't wait, my heart keep on burning. Ooh, I got no time to lose. What I need is your love tonight. Tonight Let me tell you, please don't cry for me, 'cause I'm sure that one day we will. Roy Paci, gli Aretusca con Bunna, e questo è il Maranzano, The Deuce. Now from this cage thinking about the time, should that one day at least you'll be mine forever. The sunshine again. Ci accompagna ancora oggi il Milagro Acustico di Bob Salmieri, con questa bellissima atmosfera che è Terme Atmosfere, dove ha cercato di rivisitare un po' quella che era la Roma antica nei posti termali, ma non solo Roma, ovviamente tutte le terme che in Italia avevano il frigidarium, il calendarium e così via. Noi ci accingiamo a parlare ancora oggi di quelli che sono alcuni riti di passaggio e dimostrare che comunque ognuno di essi certamente corrispondono a un rito di separazione o di margine o di aggregazione. La volta scorsa abbiamo visto dettagliatamente i riti di separazione, quello appunto il lutto, quindi tutto quello che circola, che gravita intorno al funerale, alla separazione dal morto. Oggi cominciamo col vedere il taglio dei capelli, per esempio. Per molte civiltà ha costituito delle cose fondamentali, ancora oggi in alcune civiltà comprende alcune distinte operazioni, come per esempio tagliare i capelli e dedicarli, consacrarli oppure ancora sacrificarli. Orbene, tagliare i capelli equivale a separarsi dal mondo precedente. Dedicare i capelli significa legarsi al mondo sacro, più specificamente a una divinità o a un demone, di cui si diventa così parenti. Ma questa è soltanto una delle forme di utilizzazione dei capelli, nella quale consiste una parte della personalità dell'individuo, proprio come succede nel prepuzio o nelle unghie tagliate. Molto spesso questa idea non c'è affatto e non si fa alcun uso di questi scarti, ma lì dove invece esiste vengono sotterrati, bruciati, conservati in un sacchetto oppure affidati a un parente e così via. Ugualmente il rito di tagliare i capelli o una parte della capigliatura viene impiegato in circostanze assai diverse. Per esempio, in alcune civiltà si rade la testa del bambino per indicare che entra in un altro stadio, cioè